La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, questo venerdì 20. Rimanete con noi oggi ad ascoltare qui dagli studi Radio 24 di Milano una trasmissione che è dedicata soprattutto a capire un provvedimento che è stato approvato in Consiglio dei Ministri venerdì della settimana scorsa, ma di cui adesso c'è il testo. Sapete che i testi vanno elaborati, ci vogliono tempi un pochino lunghi, quanto più la normativa è tecnica, e oggi quindi la trasmissione è rivolta soprattutto a chi ha una piccola impresa, artigiani, commercianti, ma non solo a loro, ma innanzitutto a loro, perché la platea dei beneficiari di questa misura che il governo ha assunto dopo averla promessa all'atto della Costituzione, cioè del taglio delle bollette energetiche per la piccola impresa italiana. L'obiettivo alla nascita del governo era quello di dare un taglio al consumatore finale di proporzioni apprezzabili, intorno al 1,5 miliardi, e di farlo in una modalità che avrebbe agito sugli tanti oneri che vengono spalmati sul consumatore fiscale in bolletta, oneri impropri, oneri di sistema. Insomma, la componente tanto elevata di oneri impropri o di sistema in bolletta era tale che la bolletta reagiva molto poco ai costi declinanti dell'energia, e a un mercato in cui, come ci ha confermato ieri anche nella relazione annuale all'autorità di settore, sia la produzione che il consumo hanno avuto bei picchi al ribasso per via della recessione. Allora, siccome sono girate in questa settimana delle cifre, delle modalità un po' a forbice, perché quando non si hanno i testi la stampa si scatena, abbiamo pensato oggi di farci spiegare questo provvedimento da uno di coloro che hanno la responsabilità di averlo approntato. Quindi è con noi, per parlare del taglio in bolletta alla piccola impresa, il vice ministro dello sviluppo economico, che io molto ringrazio di essere qui con noi oggi pomeriggio, Claudio De Vincenti. Grazie, vice ministro. Grazie a voi per l'invito. Buonasera. Allora, siccome io non partirei dai timori, ieri pomeriggio abbiamo fatto un accenno nella trasmissione di ieri all'articolo del Corriere della Sera che rilanciava il timore delle rinnovabili, dell'industria rinnovabile, fotovoltaico, eccetera eccetera, che dicono qui ci si taglia ancora, ci hanno già tagliato nel 2013, rischio di fallimenti, eccetera eccetera. Arriverei a questo un po' dopo. Prima le chiederei di spiegarci in alcuni minuti in che cosa consiste davvero, cioè che cosa bisogna aspettarsi, per quali segmenti di piccola impresa da questo provvedimento. Innanzitutto, è confermato, sarà 1,5 miliardi? Dunque, il complesso dei provvedimenti che sono composti da questo decreto legge e poi da decreti ministeriali e atti di indirizzo nei confronti dell'autorità dell'energia, quindi è tutto un pacchetto di interventi, porterà a regime, cioè nel 2015, a una riduzione del 10% della bolletta elettrica delle piccole e medie imprese, che significa circa 1,4 miliardi, 1,5 miliardi. Questo sarà il risultato di questo insieme di interventi. Il decreto in sé porta a risparmi che già sono quotabili intorno tra gli 800 e i 900 milioni, stiamo parlando naturalmente su base annua, di minore costo della bolletta per 800-900 milioni, e il resto, che porta al 1,5 miliardi, è dovuto appunto agli altri provvedimenti che prenderemo attraverso atti di tipo amministrativo, decreti ministeriali o atti di indirizzo. Nei documenti preparatori noi avevamo visto che l'identificazione dei beneficiari, cioè di coloro a cui arriverà questa riduzione del costo dell'energia per la piccola impresa, la piccola e media impresa, erano identificati come i consumatori, mi corregga lei se sbaglio, lo dico per chi sta a casa in maniera che si possa fare i conti, i consumatori che erano collegati in media tensione, che sono più o meno 110-120 mila, e i consumatori collegati in bassa tensione però con una potenza maggiore di 16,5 kilowatt, e sono più o meno 600.000, è sì. Confermato che sono questi, no? Sì, sono questi, stiamo parlando quindi sia delle medie imprese e delle piccole imprese, sia delle imprese artigiane. Ok, ora la copertura di tutto questo per non generare oneri impropri, da dove arriva? Cioè che, dove si interviene, a chi e cosa avete ridotto e tagliato? Beh, dunque ci sono una serie di voci, a parte scusi che premetto che questa misura arriva dopo che già nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo sono state prese delle misure di liberalizzazione, di apertura del mercato elettrico, del mercato del gas e così via, che hanno già comportato delle riduzioni sulle bollette di cui i consumatori di elettricità e di gas hanno già avvertito l'impatto. Ricordo per esempio che nel corso del 2013 il prezzo del gas, grazie a queste misure, è sceso di oltre il 7% e il prezzo dell'elettricità ha cominciato a ridursi presso al prezzo del gas, anche perché il gas, come sappiamo, è un input per la produzione di elettricità. Infatti ieri conferma, aspetti un secondo. Abbiamo delle misure ulteriori che toccano alcune voci della bolletta dove diciamo quello che facciamo è un'operazione di riequilibrio, diciamo anche di equità, in cui sappiamo che alcune categorie hanno in questi anni avuto troppo, diciamo, e altre invece hanno pagato troppo. Stiamo cercando di riequilibrare il peso della bolletta. Questa è l'operazione che nell'insieme facciamo, chiamiamola la filosofia dell'intervento. Togliamo a chi ha avuto troppo per restituire a chi ha pagato troppo. Ora, tra coloro che hanno avuto troppo, nelle anticipazioni, indiscrezioni di cui ha scritto la stampa in questa settimana, ci sono per esempio Ferrovie dello Stato, è così? Dunque, Ferrovie dello Stato ha avuto uno sconto del prezzo dell'elettricità che deriva da un lontano provvedimento risalente all'epoca della nazionalizzazione di elettrica, perché Ferrovie cedette all'Enel una serie di centrali. Ora questo, noi giudichiamo questo sconto ormai superabile, almeno parzialmente. Quindi abbiamo previsto di ridurre questo sconto di cui gode Ferrovie dello Stato, con attenzione però a ridurlo, a lasciarlo diciamo in essere per quello che riguarda il cosiddetto servizio universale, in particolare, per esprimerci in estrema sintesi, per i servizi ai pendolari. Pendolari e trasporto pubblico locale. Rimane in modo che comunque anche i prezzi dei biglietti per i pendolari non vengano in alcun modo toccati. Oh, un'altra categoria di soggetti che erano tutelati, per così dire, era quella dei dipendenti, che in virtù di alcuni contratti collettivi nazionali per alcune imprese di distribuzione elettrica avevano un bello sconto. Sì, anche questo lo giudichiamo uno sconto che può essere recuperato in quella logica che dicevo prima, cioè cerchiamo di aiutare quelli che hanno pagato molto, insomma, l'elettricità, e vogliamo che la paghino, comincino a pagarla un po' meno. E tra l'altro questo è importante, come dicevo, quando parliamo di piccole e medie imprese, perché è importante per rilanciare il sistema economico italiano e quindi per avere poi anche quegli effetti sul PIL e sull'occupazione che sono molto importanti anche dal punto di vista sociale. Ora invece arriviamo al punto di fondo, però noi abbiamo 60 secondi adesso di informazione stradale, però il punto di fondo è quello della rimodulazione degli incentivi per le rinnovabili, e in particolare per gli operatori, gli impianti fotovoltaici, non quelli di piccola taglia, ma quelli che hanno un importante investimento finanziario. E qui questa è una delle categorie che più protesta per l'intervento, perché dicono: noi già ci avete tagliato nel 2013, questo taglio ci espone a un disastro. Vediamo col viceministro tra poco se è vero, ma intanto strada, ci sentiamo tra un minuto. La la versione di Oscar. Eccoci qui tornati a parlare dagli studi di Radio 24 di Milano con il vice ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti del decreto taglia bollette per la piccola e media impresa. Abbiamo avuto la conferma, si tratta di 1,5 miliardi tra decreto legge e decreti attuativi. Abbiamo visto qual è la platea dei beneficiari, stiamo tentando di spiegarvi quali interessi si colpiscono. Abbiamo visto una parte di sussidio che continuava ad andare a Ferrovie dello Stato, alcuni sconti che andavano ai dipendenti dell'Enel, ma non solo loro, e adesso siamo al punto di fondo. Dopo l'intervento che nel 2013 frenò l'aumento che diventava vorticoso di anno in anno alle rinnovabili, in particolare al fotovoltaico, eravamo arrivati a un incentivo al fotovoltaico che era di 313 euro a megawattora rispetto ai 162 in Germania e alla media europea di 160, cioè più del doppio. Si reinterviene con il decreto anche su questa voce e i rinnovabilisti, in particolare quelli del solare, protestano tantissimo. Vice Ministro, allora ci spiega cosa avete fatto e che ripercussioni prevedete? Dunque, intanto per chiarire devo dire che nella strategia energetica nazionale del governo le rinnovabili hanno un ruolo molto importante, quindi in realtà noi intendiamo sviluppare le rinnovabili e anche il fotovoltaico. Il fotovoltaico in particolare prevediamo in questo intervento una serie di misure di semplificazione amministrativa, quindi di facilitazione nei processi autorizzatori a installare fotovoltaico e di liberalizzazione del settore, che quindi faciliterà lo sviluppo del fotovoltaico. Dove andiamo invece a incidere? Andiamo a incidere su Parlato per spiegare ancora di una specie di modello unico, soprattutto per i piccoli produttori di fotovoltaico. Sì, di autorizzazione che semplifica. Dove andiamo a incidere? Dunque, andiamo a incidere prima di tutto su una platea molto ristretta, perché stiamo parlando del 4% degli operatori, cui oggi va più del 60% degli incentivi. In altri termini, tutti quelli che hanno piccoli impianti sotto i 200 kW sono assolutamente fuori di questo intervento, cioè allora non si tocca incentivi come erano, quindi come dire, la grandissima, il 96% di coloro che hanno installato impianti fotovoltaici non sono toccati da questo intervento. Io ricordo a chi è in ascolto che sugli oltre 12 miliardi annui destinati al consumatore finale da pagare in bolletta come incentivi alle diverse rinnovabili, 6.7 miliardi se non sbaglio vanno al solo fotovoltaico. Di questi 6.7, la quota però molto elevata è esattamente di questa categoria di operatori più grandi, che sono più o meno 9.000 su 200.000, che sono interessati invece dalla riduzione. Che riduzione è? Sono, diciamo, per capirci, su quei 6,7 miliardi, al 4% degli operatori, questi quasi 9.000 operatori che lei dice, vanno oltre 4 miliardi insomma, di euro. Quindi è su questo che il decreto interviene. Interviene perché abbiamo lì dei tassi di rendimento spropositati, adesso diciamoci purtroppo le cose come sono andate, e quindi pensiamo che sia opportuno un riequilibrio, ripeto, per aiutare coloro che invece sono svantaggiati dal sistema. Quindi prima di procedere, aspetti un secondo, le devo fare un'obiezione a nome di questi 9.000, ma non perché me l'abbiano affidata, ma perché quello che dicono è già chiaro ai giornalisti, cioè loro dicono: sarà vero quello che ha appena ricordato il vice ministro Vincenti, e cioè che grazie alla crescita e alla quantità di incentivi che ricevevamo avevamo un ritorno 15-16% annuo. Però il problema è che i nostri piani industriali, quindi l'esposizione al credito bancario con cui abbiamo finanziato i nostri piani industriali, la nostra crescita, era tarato su quel ritorno. Adesso sarà stato elevato, ma dopo l'intervento del 2013 ce lo abbassano ancora, noi con le banche ci troviamo scoperti però e andiamo via. L'intervento del 2013, che poi lei mi consenta se la correggo su questo, risale in realtà a luglio 2012, ma comunque poi i suoi effetti sono stati sul 2013, è un intervento sugli impianti che ancora andavano costruiti, non sugli impianti passati. Questo è un intervento sugli impianti già costruiti, esistenti. Quindi, come dire, questi impianti di cui parliamo non sono stati toccati dall'intervento del 2012-13. Comunque, al di là di questo, la preoccupazione reale, e ne abbiamo tenuto conto anche perché ci siamo confrontati con le associazioni dei produttori di fotovoltaico, e ne abbiamo tenuto conto e quindi abbiamo predisposto, diciamo, nella fare quella che si chiama una spalmatura, cioè abbiamo allungato il periodo entro cui quell'ammontare complessivo di incentivo può essere fruito, da 20 a 24 anni. Così facendo abbiamo ridotto di circa il 17% l'incentivo di cui si gode ogni anno, perché viene recuperato poi nei 4 anni finali. Questo può creare dei problemi di cassa per i produttori di fotovoltaico per i motivi che lei diceva. Proprio per questo noi abbiamo predisposto un meccanismo di sicurezza e di aiuto per questi produttori, e cioè abbiamo previsto che possono essere aiutati nel sostenere questa riduzione di incentivo con un equivalente prestito che gli viene dal sistema bancario, sostenuto dall'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, che fornirà quindi liquidità e garanzie alle banche che faranno questo finanziamento per i produttori di fotovoltaico, e proprio perché interviene con liquidità e garanzie consente di avere un tasso di interesse di mercato ma decisamente basso, quindi un forte sostegno finanziario proprio per garantire a questi operatori di non avere contraccolpi di cassa. In ogni caso ricordo che poi c'è l'opzione prevista nel decreto che se il produttore può optare per una autoriduzione dell'incentivo stesso, quindi valuterà poi lui quale delle due modalità è più compatibile con la gestione dei propri profili di ammortamento dei finanziamenti ricevuti. Comunque è confermato che rispetto al patto complessivo del provvedimento la sola quota che si crea, deriva da questa rimodulazione degli incentivi al rinnovabile fotovoltaico, è più o meno un terzo, se non di poco superiore, quindi insomma la parte rilevante, no? È confermato che è così? Rispetto al decreto, rispetto al pacchetto complessivo del 1,5 miliardi, è circa un terzo. Sì. Le devo anche dire che poi interveniamo anche su altre voci, no? Per esempio anche su applicando il decreto legge destinazione Italia sulle rinnovabili non diverse dal fotovoltaico, dove abbiamo anche lì un'operazione di spalmatura che però può essere gestita con strumenti diversi, comunque con su base volontaria, e inoltre interveniamo su altre voci, per esempio limiteremo con un atto di indirizzo all'autorità dell'energia, in questo caso con un decreto ministeriale, delimiteremo meglio, razionalizzeremo l'istituto della interrompibilità, che è un istituto che riduce il costo dell'energia per le imprese energivore, e questo lo razionalizzeremo, ne miglioreremo l'utilizzo e così via. Guardi, nell'insieme, se io faccio la proporzione tra quanto incidiamo su ogni voce della bolletta e quanto quella voce è rilevante per la bolletta, l'intervento è veramente proporzionale, cioè ognuno viene chiamato per la quota a pagare che in proporzione a ciò di cui ai vantaggi di cui ha goduto finora. E mi faccia aggiungere, questo servirà ridurre la bolletta per chi invece, le piccole e medie imprese, di quei vantaggi non ha potuto godere finora. Secondo me è un buon esempio di quello che bisognerebbe fare, cioè troppi oneri impropri che gravano sul consumatore finale identificano secondo me dei soggetti che hanno avuto molto. Questo io ne parlo dalla previdenza alla bolletta elettrica, secondo me questo è un buon criterio da seguire. Oggi abbiamo fatto una trasmissione, lo dico per chi è in ascolto, per spiegarvi come funziona. Vi aggiungo che una piccola componente che a me ha colpito molto quando l'ha presa, perché la ignoravo, era che viene anche ridotta, per così dire, le esenzioni, le tutele che venivano per la bolletta elettrica date al Vaticano e a San Marino. È una piccola cifra rispetto al 1,5 miliardi, però lo considero sacrosanto da questo punto di vista. Allora io ringrazio il ministro Claudio De Vincenti, voi continuate con Radio 24 ad ascoltarci, appuntamento con me a lunedì.